su internet, dove cantiamo, c'è il salotto come lo facciamo qua, ci sono i giochi. Adesso vado un po' a salutare a loro, perché se non mi vedono si preoccupano, siamo come dal vero, dai. Siamo affiatati come persone che si conoscono proprio, diciamo, all'esterno di internet. Ma quello dove si canta? Esatto, sì, si canta, poi la sera verso le 7:30 così iniziano i giochi e c'è la sala, c'è il salotto, no? Ci sono delle poltrone dove tu ti siedi e parli, normalmente ti senti come se stai parlando al baracchino, la stessa cosa. Un salotto, mi aveva accennato, come si chiama, quella persona che, vabbè dai. Già hai capito? Sì, c'era anche lì. Sì, mi aveva accennato una cosa del genere. Vabbè, dai, buon divertimento, allora, alle prossime. Andato anch'io, mi trovo un po' vado perché iniziamo a prepararci la cena. Avanti Carlo. Ciao Gianni, allora ci sentiamo al prossimo collegamento, dai, rimango a fare quattro chiacchiere ancora con Franco e anch'io tra un pochino chiudo perché c'è un po' le attività della cena, pre-cena e da preparare qualcosa. Ma lo sai che come la fermo questo apparecchio, praticamente non stava più funzionando bene la frequenza, che si spegnevano le due lettere, poi come ha caricato di nuovo si è ripreso. Che apparecchio è? Garage. Ah, che è vero. Che lo fanno, anche il mio ogni tanto rimane solo lo zero, poi si riprende, il colpettino si riprende. Sono i condensatori che si scaricano, se tu li lasci fermi, se sono appena in ferita, si scaricano e succede quello. Però una volta che tu lo usi, perché non l'ha fatto una volta solo, non è che me l'ha fatto 100 volte, però come l'ho usato, poi ogni giorno lo lascio acceso perché per caricare, perché se no se ne va a fanguanas. Vabbè, ci sentiamo, dai, statevi bene, grazie per il QSO e alle prossime. Ciao Gian, un abbraccio. No, questo si sposta, vedi, adesso invece, come si dice, invece di essere 7.5, adesso è 7.4, man mano che scala un po' si scivola un po' di frequenza. Avanti Carlo. Ciao Gianni, alle prossime, dai, ci sentiamo magari domani se coincide. Bene Mera, no, io già ogni tanto già l'accendo la mia radio, per cui non gli do tempo che insomma che si inchiodi, dai, già a volte faccio solo ascolto, l'accendo e magari metto anche sul canale internazionale di chiamata in banda laterale, faccio un po' di ascolto lì, poi mi sposto. E quindi in un modo o nell'altro già le tengo sempre in funzione, anche quella che ho giù ogni tanto la collego in macchina e stavo pensando di mettermela dentro il cassettino, però devo prendere bene le misure prima di sistemare il, come si chiama, il supporto, dai. Se riesco a metterla lì quella va bene, che non ha bisogno di ulteriori watt perché l'avevo già modificata io e quindi può darsi pure che qualche altra volta ci sentiamo anche dalla macchina, così a volte rientrando dal lavoro sentivo sempre qualcuno, poi ho tolto tutto dalla macchina, ma mi sa che così la rimetto e le uso tutte e due queste radio che mi sono rimaste. Mira, c'è un po' che non lo accendo in macchina, sarà già qualche mese, speriamo che funzioni ancora. Nel cassettino però come fai col raffreddamento? E tanto quando modulo non è che ci sto tanto, per cui lo lascio aperto mentre modulo e l'aria dovrebbe circolare, non è troppo chiuso se lasci lo sportellino aperto, capito? E niente, se non trasmetti molto non scalda più di tanto, certo d'estate magari puoi avere più problemi, però metti il condizionatore e già rinfresca anche là. Mi ricordo avevo una macchina prima che aveva, come si dice, l'apertura per l'aria condizionata all'interno del cassettino e ci potevi mettere qualcosa per rinfrescare. Esatto, sì, però io quando attacco l'aria condizionata se tu metti la mano dentro il cassettino e la regoli sotto, sale anche lì l'aria fresca, capito? Quindi, perché una volta mi è capitato di dover mettere una bottiglietta e ho detto strano, e non si è scaldata per niente, ed è perché avevo l'aria condizionata accesa e il getto d'aria l'ha rinfrescata, perché saliva sin lì, perché dietro c'ha delle aperture, capito? Non so se l'hanno fatta apposta per quello. Fatto sta che penso di riuscire a metterla lì e magari non mi scalda neanche tanto. Mi sono impiantato una ventunina di quelle da computer dietro, in modo che da dissipare un po'. No, io proprio avevo lo sportellino aperto e chiuso, proprio uno sportellino meccanico che apriva, entrava proprio il getto di aria fresca. E anche qualcosa, ma non voglio fare troppi impianti strani, capito? Sennò poi carichi anche la batteria di tante cose, capito? Lì penso che quella radio mi dia una ventina di watt massimo, non di più, ma per la città, diciamo, e per collegamenti a breve distanza dovrebbero essere più che sufficienti. Sì, anche la mia ha una ventina di watt, c'ha il dissipatore dietro, però è grande, la mia è grande, cioè non ci sta dentro il cassettino, sarà forse 30 centimetri di profondità. Sì, io l'ho misurata anche la mia, quella che ho il dissipatore di caldo, no? E c'ha le alette, però io l'ho provata così e ci sta dentro e mi chiude pure lo sportellino, solo che non so come fissare, se bucare la parte alta con due viti e fissare lì la staffa, se metterla così o metterla alla base, capito? Tutto devo vedere perché non voglio che mi traballi, capito? E quindi lo vorrei fissare bene, se no fa un macello se lo lasci così. Sì, sicuramente se la fissi, diciamo, sulla base è meglio, perché la parte alta magari potrebbe vibrare, magari le viti cedono un po'. Esatto, e vedo un po' cosa riesco a fare. Devo trovare il tempo per sistemarla lì, capito? E in questo periodo anch'io avevo tante cose da fare, mi ho spostato la caldaietta da una parete all'altra, fuori nel terrazzino, come mi hanno passato l'isolamento del cappotto termico, avevo tutti i tubi, insomma un casino. Adesso ho la caldaietta che è messa attaccata con una fune e l'ho attaccata al tubo del gas, provvisoria, perché appena finiscono di intonacare e tingono devo prendere di quei tasselloni da 25, capito, e fare il foro che mi passi lo spessore di 15 cm del cappotto termico, capito, per arrivare al muro, e quindi ci vuole un tassello almeno da 20 o da 25 meglio, così me la sistemo fissa, però tirano alle lunghe questi muratori, guarda, ancora non ne possiamo più, siamo più di un anno e mezzo con loro, ci hanno promesso che entro il 30 di dicembre finiranno tutto, speriamo bene. Scusate un attimo. Prego. Sono entrato per farlo sapere anche a Gianni e anche a voi, giustamente. Ho assaggiato quello che ho cucinato. È una cosa stupenda, favolosa, perché c'è il contrasto con la loro forte che ha quel sapore indimenticabile e con i pisili che sono dolci. Posso dire che ho fatto un'ultima cena, lo rifarò un altro giorno. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione. Va bene a loro, ma è a noi. Vabbè, fate la fila, prendete il numero. Dai, buon appetito allora. Avanti, Carlo. Ehi, ciao, sono buon appetito. Se hai mangiato stai iniziando la digestione adesso. Va bene, dai, importante è che sia venuto buono. Importante è quello. Niente, siamo rimasti solo con io e Franco, perché Gianni prima ha chiuso e andava a parlare con la comunità dei cantanti, diciamo, su internet, e quindi non so se sia ancora in ascolto, magari già ti ha sentito, se no domani glielo diciamo noi. Ho solo assaggiato, ho gustato, ho messo nel piatto, adesso vado proprio a cenare, dai, perché non voglio mangiare tardi e poi ricoricarmi, no, io voglio stare almeno 2 ore, faccio la digestione, 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore, guardo la TV. Ok, grazie di nuovo, ciao Carlo, ciao Franco, buon proseguo, alle prossimine, ciao. Eia, ciao Tonino. Ciao Tony, guarda che c'è un po' di sugo mi vicino vicino al muso. No, che mi sono pulito con lo Scottex. Avanti Carlo. E anche io tra un po' chiudo, dai, perché sono già le 7:30. A dire la verità anche io ho un po' di fame, però penso che mangeremo un po' di avanzi dal pranzo di mezzogiorno, magari se riesco a lavarmi un po' di pomodori, insalata, faccio anche un'insalata, capito? E ci teniamo un po' più leggeri stanotte. Frutta già ne ho. Ho trovato dei, come si chiama, clementini belli, belli grossi anche, ma buoni. Stamattina sono uscito a fare un po' di spesa, ho preso cacchi, banane, un po' di uva, mele, insomma, con la frutta già non si sbaglia mai, tanto quella fa solo bene a mangiarla, frutta, verdura, pasta senza esagerare, capito? Così almeno di notte stiamo più leggeri. Eh sì, anch'io la sera preferirei sì, mangiare, non so, un po' di insalata, come dici tu, un po' di mozzarella, qualcosa, un pezzo di formaggio. La pasta prima la mangiavo a pranzo e a cena, adesso a cena la evito, se posso la evito, la mangio solo a pranzo. E anche io in campagna poc'anzi, vabbè, i cacchi sono finiti ormai, però già l'abbiamo mangiato, qualcuno l'abbiamo assaggiato, un po' di melograni c'erano, ho fatto un po' di arance che addirittura stanno già cadendo col vento che ha fatto, e un po' di mandarini, certo non sono clementine, stanno pieni di semi, però il sapore e il profumo solo della buccia è fantastico. Eh sì, le cose naturali, almeno senti quelle, a volte compri la frutta e non senti nemmeno i profumi, dai, quello hai ragione, già è così, quelli che cogli tu dall'albero sono tutta un'altra cosa. Stamattina ero lì vicino dopo tempio a Nuchis, c'era un albero di mele cotogne, ne ho raccolto 3 o 4, ma le ho messe solo per il profumo, ma le ho messe in casa, è bellissimo. Guarda, di quelle, quando ero ragazzo che avevamo la vigna, avevamo un albero, ma grande, ma ne faceva tante, e pensa che le raccoglievo e le mettevo in una cantina che avevamo, profumavano tutta la stanza, e mi ricordo che mia madre le tagliava a pezzi, le faceva la marmellata di mele cotogne, noi facevamo merenda con pane e marmellata di mele cotogne, Nutella, di quelle cose lì non ne mangiavamo, però tutte queste cose le faceva, e poi erano buone le mele cotogne sbucciate, fatte bollire, che fanno quel sughetto sul rosa, no? Ci metti un cucchiaino di zucchero e sono fenomenali, a me piacciono parecchio. Eh sì, sono vecchie tradizioni che un po' si stanno perdendo, faceva proprio quel sughetto buono, come si chiama, con lo zucchero, fantastico, sì sì. No, ripeto, era un albero in una cantoniera, un albero ormai abbandonato, quindi non sono molto grandi come dimensione, però il profumo rimane. Vorrebbe potato quell'albero, poi qualcuno su in punta ha visto che era bella grande, ma quelle in basso erano tutti nati dai polloni magari, e quindi sono un po' piccoline, però ripeto, il profumo è bello. Mi sa che adesso mi ha ricordato questa cosa delle mele cotogne, c'è un frutto e verdura che è di Sorso, no? E quindi prende molta roba da Sorso, ogni tanto porta cose così naturali, eccetera. La prossima volta che ci vado glielo dico se me le procura un po' di mele cotogne, di quelle belle profumate, capito? Ma per mangiarle, non per deodorante, o io se me le dà le faccio bollire e sono ottime così. Eh sì, va bene, dai, ti auguro una buona serata, una buona cena, buon tutto, una buona notte, mi ha fatto piacere sentire dopo un po' di tempo, un abbraccio da parte mia e alle prossime, a te ancora il Mike. Ehi Afra, contraccambio tutto, grazie delle 4 chiacchiere, e lo stesso anche a me, ogni tanto fa piacere risentire i vecchi amici di radio, dai, ce la risentiamo alle prossime, buona serata e buona cena, ciao alle prossime. Ciao caro, ciao ciao.